Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il clima, il Covid, la resilienza. Benvenuti al mondo che verrà. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. È l'insieme dell'intervento dell'uomo sul pianeta che ci mette a rischio. The scientists warned us to prepare for a pandemic that was almost exactly like the one that we're struggling with now. Per salvaguardare la salute delle persone, dobbiamo salvaguardare l'ambiente. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Sono le 16:09 in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun luogo è lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e Valeria Bernardi in regia. E come ogni giorno sapete che potete commentare, porre domande, alimentare il dibattito con SMS e WhatsApp al numero 349-238-6666. Potete farlo anche attraverso i social: Facebook Nessun luogo è lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun luogo 24, ovvero Giampaz. Intanto arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, qua veramente c'è da stabilire il premio del pollice più veloce. Però fatemi almeno spiegare meglio la puntata di quest'oggi, i temi che tratteremo. La puntata di quest'oggi sarà un viaggio, ma anche un'analisi e forse una previsione sul futuro. Il tutto parte da un interessantissimo rapporto presentato ieri dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa, che stima in oltre 51 milioni di persone gli individui sulla faccia della Terra colpiti contemporaneamente da disastri legati al cambiamento climatico e Covid-19. Questo è il nostro punto di partenza, assieme ad altri punti che sono corollari, se volete. L'annuncio di Xi Jinping all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite saranno le emissioni di CO2 praticamente pari a zero entro il 2060 per il colosso cinese. E poi ancora un editoriale del New York Times che dice: sarebbe ora che nel dibattito tra repubblicani e democratici negli Stati Uniti si inserisse la questione climatica una volta per tutte. La riflessione che faremo oggi è come il cambiamento climatico andrà a ridisegnare e riequilibrare i grandi assetti internazionali. Attori prepotenti, attori di peso, in un domani anche abbastanza vicino, potrebbero perdere il peso che hanno quest'oggi, e attori magari che adesso giocano partite di serie B o di serie C invece potrebbero immediatamente balzare nella serie A. Di questo parleremo, e lo faremo punteggiando peraltro il racconto con delle storie che incarnano in maniera molto forte, in maniera molto plastica, i temi che trattiamo in questa puntata di Nessun luogo è lontano. Il cambiamento climatico assieme al Covid-19 è sicuramente un'emergenza combinata e ci vuole una risposta complessa e adeguata. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti, SMS e WhatsApp. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo, molto caldo, ci porta negli Stati Uniti per la nuova ondata di proteste, dopo che ieri il gran giurì ha respinto l'accusa di omicidio per due ufficiali di polizia responsabili della morte della 26enne afroamericana Breonna Taylor, avvenuta dopo l'irruzione dei due agenti nell'appartamento della donna. Era lo scorso 13 marzo. Dei tre agenti coinvolti, soltanto uno è stato incriminato, ma le imputazioni più serie sono cadute. L'agente Brett Hankinson è stato accusato soltanto di condotta negligente e pericolosa. L'agente avrebbe sparato 10 colpi d'arma da fuoco, 6 proiettili hanno raggiunto la donna e l'hanno uccisa, mentre i due colleghi non sono stati affatto incriminati. Diversa ovviamente la versione del compagno della donna, della vittima: ha detto di essersi svegliato di soprassalto quando gli agenti, senza però farsi identificare, hanno buttato giù la porta dell'appartamento, e l'uomo appunto avrebbe sparato perché convinto che dei ladri o comunque dei malviventi stessero entrando nell'appartamento. Da lì è nata la sparatoria con l'esito fatale. Tante piazze, tante strade negli Stati Uniti si stanno mobilitando ancora una volta, e questo chiaramente è un dossier che rimane caldissimo. Molti sono scesi in piazza sfidando il coprifuoco e i divieti delle autorità. Torneremo sul tema ancora una volta, e noi vorremmo non parlarne di questa situazione negli Stati Uniti, ma lo faremo probabilmente già nella puntata di domani. Intanto arriva un altro inquietante rapporto di un think tank australiano che ha pubblicato una ricerca che in realtà andava a confermare quello che già più volte abbiamo ripetuto da questi microfoni, ospitando anche giornalisti, quei pochi che hanno visitato lo Xinjiang, questa vastissima regione cinese dove è in corso probabilmente il più grande esperimento di ingegneria sociale e non solo della storia dell'umanità. L'Australian Strategic Policy Institute ha detto di aver identificato più di 380 presunte strutture di detenzione nella regione, quella regione dove le Nazioni Unite affermano che negli ultimi anni sono stati trattenuti più di 1 milione di uiguri e altri residenti di lingua turca, per lo più musulmani. I ricercatori hanno condotto questa analisi, hanno redatto questo rapporto utilizzando immagini satellitari, testimonianze, resoconti dei media, si sono affidati anche appunto a quei pochi giornalisti che non hanno accettato le cosiddette visite guidate. Il regime di Pechino è certamente in grado di fornire anche una facciata di facciata, appunto, perdonate la ripetizione, una versione, una narrativa certamente più morbida rispetto a quello che secondo molti analisti e anche giornalisti invece sta avvenendo. Naturalmente staremo a vedere se la cosa avrà ripercussioni politiche. Per il momento sembra che su certe tematiche Pechino continui a rimanere un muro di gomma. Stiamo più o meno nell'area, stiamo nell'estremo oriente, perché tra Corea del Nord e Corea del Sud volano schiaffi, coltelli. Il Ministero della Difesa di Seul ha dichiarato oggi che le forze armate della Corea del Nord hanno ucciso un ufficiale del governo di Seul che lavorava per il Ministero degli Oceani e della Pesca, bruciandone il corpo. L'uomo sarebbe scomparso dalla sua imbarcazione, si pensa stesse cercando di entrare legalmente in Corea del Nord. L'uomo sarebbe stato trovato da una nave di pattuglia invece delle forze di sicurezza di Pyongyang. Dopo l'interrogatorio, gli ufficiali nordcoreani avrebbero ricevuto l'ordine di ucciderlo. Non è assolutamente chiara né la motivazione di questo presunto ordine né la modalità. Probabilmente alcuni suppongono si sia trattato di un'azione volta a limitare, pensate, la diffusione del coronavirus, perché precedentemente il comandante dell'esercito statunitense in Corea del Sud aveva affermato che le truppe nordcoreane avevano ricevuto l'ordine di sparare per uccidere al confine, per evitare appunto il propagarsi della pandemia. E poi torniamo a parlare di Venezuela, lo abbiamo fatto nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, perché torna a farsi sentire con forza e vigore la voce del presidente venezuelano Nicolás Maduro, che ha invitato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a manifestare contro le sanzioni statunitense che sono state imposte a Caracas, nonché ai suoi alleati. Tra gli alleati ricordiamo Cuba, Nicaragua, Siria. Dobbiamo chiedere la cessazione di tutte le misure coercitive unilaterali e di tutte le sanzioni, ha detto Maduro in un videomessaggio che è stato indirizzato al Palazzo di Vetro, condito della solita retorica evidentemente antiimperialista e antiamericana, esortando i leader mondiali a fare fronte comune contro la pandemia da coronavirus. È utile ricordare che il caso venezuelano, in preda a una profonda crisi economica, sociale e a questo punto anche sanitaria, sta, grazie agli aiuti per esempio del petrolio iraniano, sta cercando di sopravvivere e sta creando attorno a sé quello che abbiamo chiamato proprio nella puntata di ieri, se non erro, una globalizzazione di un conflitto locale, una fortissima divisione da parte dei grandi attori sugli scacchieri internazionali che sono pro o contro il governo di Nicolás Maduro. Si è fatto sentire anche ovviamente il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, ha esortato la comunità internazionale invece a prendere un'azione decisiva per cacciare definitivamente Maduro. Allora, arrivano già un po' di messaggi al 349-238-6666, molti in realtà sono relativi al tema che abbiamo già trattato ieri, il nuovo patto per l'immigrazione europeo. Ne abbiamo parlato ieri, abbiamo cercato di trovare i punti di forza e di debolezza, più i secondi che i primi a tutti gli effetti, perché il trattato di Dublino sostanzialmente, lo avete sentito anche dal GR, dalle dichiarazioni della politica italiana e del governo italiano, non è stato superato, quindi sicuramente non fa contenti i paesi del Mediterraneo. Torneremo sicuramente sul tema, questo ve lo prometto. Quest'oggi però vorremmo parlare di qualcos'altro, partendo da un rapporto incredibile che fotografa due catastrofi messe insieme. Queste due catastrofi sono i disastri naturali legati al cambiamento climatico e l'impatto della pandemia da Covid-19. Contemporaneamente hanno colpito l'anno scorso più di 51 milioni di persone. Di questo parliamo oggi. Sea levels have risen at an alarming rate. È un disastro. Gli incendi sono di portata catastrofica, con causa importante il cambiamento climatico. Mo 2020. Marzo 2020, 31 giorni che il mondo non dimenticherà facilmente. Più di 27 milioni di persone nel mondo sono state infettate dal coronavirus. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Questa non sarà l'ultima pandemia. Questi nostri usuali 90 secondi per andare dritti al cuore della puntata di Nessun Luogo Lontano, 90 secondi, un piccolo viaggio condensato e shakerato e realizzato da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi. I punti di partenza, ve lo dicevo poc'anzi, questo nuovo rapporto redatto dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa che stima in 51,6 milioni le persone che nel mondo sono state colpite contemporaneamente da alluvioni, da siccità o incendi e allo stesso tempo dal Covid-19. Quindi cambiamenti climatici e disastri adesso legati e la pandemia. Il New York Times in un lungo editoriale di quest'oggi proprio invocava che nell'agenda politica statunitense, in particolare nel dibattito tra repubblicani e democratici, la questione cambiamenti climatici entrasse in maniera più prepotente, ricordando come nel 2016, nell'ultimo confronto tra la Clinton e Trump, nessun moderatore, nessun giornalista aveva chiesto una sola cosa sui cambiamenti climatici. E il terzo punto è invece, torniamo a quel messaggio del presidente cinese Xi Jinping all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si sta tenendo, come vi abbiamo raccontato, in forma virtuale. Quindi c'è chi lavora in streaming, chi invece manda messaggi preregistrati. Ebbene, Xi Jinping ha detto che entro il 2060 si raggiungerà la cosiddetta carbon neutrality, cioè o zero emissioni di CO2 oppure attività tali da bilanciare le emissioni di CO2. Un programma molto ambizioso. La Cina ha detto che raggiungerà il picco delle emissioni nel 2030 per poi, come dire, scavallare quella curva benefica. Al momento è il paese che detiene al mondo la maglia nera per le emissioni. Questi sono i nostri tre punti di partenza, ma la domanda sottostante a tutto ciò è: come si ridisegnerà il mondo quando grossi colossi, per esempio, che esportano petrolio come l'Arabia Saudita, saranno un po' la canna del gas, perdonate anche l'ossimoro, parlare di canna del gas parlando di esportatori di petrolio forse appunto è un po' bizzarro. Quando dicevo comunque economie fortemente dipendenti dal petrolio dovranno svoltare, dovranno abbracciare altri modelli di sviluppo, che cosa accadrà? Perderanno importanza? O quando magari piccoli attori che per il momento nemmeno si vedono nell'orizzonte della grande attualità internazionale acquisiranno maggior peso? Ecco, che cosa accadrà nell'ordine mondiale, in quel quasi bipolarismo, questo braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti che ormai si è cristallizzato e probabilmente ci accompagnerà nei prossimi lustri. Partiamo però da questo strano abbinamento, questo strano studio a prima vista perlomeno, che è stato condotto dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa. Perché legare i disastri legati al cambiamento climatico e la pandemia? Qual è il link che lega questi due fenomeni? Ve lo faccio dire dalla voce di Giulia Righi, che è esperta clima proprio della Federazione Internazionale della Croce Rossa. In this report that was launched today by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Nel report abbiamo individuato il numero di persone nel mondo che sono state colpite sia da disastri legati al cambiamento climatico che dal Covid-19. Abbiamo cercato di capire se il Covid era presente nei luoghi in cui sono avvenuti questi eventi ad alto impatto e abbiamo combinato i numeri dei due fenomeni. E così abbiamo stabilito che almeno 51 milioni e 600 mila persone sono state colpite da questi due fattori combinati insieme, quindi alluvioni o siccità insieme alla pandemia da Covid. E spesso questa combinazione di eventi avviene in luoghi e comunità vulnerabili. Per esempio, immaginate di aver perso il vostro lavoro anche solo temporaneamente a causa del Covid-19. Immaginate poi di essere colpiti da un disastro. Magari la vostra casa è stata travolta da un'alluvione, proprio mentre state cercando di risollevarvi dall'impatto negativo del virus. Questo impone un enorme fardello sulla vostra persona. Oppure immaginate di dover andare in un centro di evacuazione per un disastro naturale e allo stesso tempo avete il timore che l'assembramento possa mettere a rischio la vostra incolumità. Ecco, questo è quello di cui parliamo quando illustriamo l'impatto dei due eventi messi assieme. La voce che state ascoltando è quella di Giulia Righi, esperta del clima per la Federazione Internazionale di Croce Rossa. A lei faccio anche dire quali sono state le zone più colpite e le comunità più esposte. Sentite. Uno dei disastri più grossi del 2020 è stato quello accaduto in India e Bangladesh, dove 40 milioni di persone sono state colpite dalla pandemia e da alluvioni e tempeste. Lì Croce Rossa è stata mobilitata per rispondere alle varie esigenze, non solo sanitarie, ma anche per esempio legate alla mancanza di cibo. Ma credo che il messaggio chiave del nostro rapporto sia l'estensione di questo doppio impatto sul mondo intero, dagli incendi negli Stati Uniti al rischio idrogeologico che l'Europa sta vivendo, ai giganteschi incendi che si acuiscono in estate, specie nell'emisfero sud. Quindi diciamo che l'intersezione dei due eventi, Covid e disastri climatici, aumenta la vulnerabilità di tante zone del mondo. Questa è la voce di Giulia Righi, esperta di clima per la Federazione Internazionale della Croce Rossa, che proprio ieri ha presentato questo rapporto che illustra in maniera drammatica come due eventi combinati, come disastri legati al cambiamento climatico e Covid-19, abbiano colpito duramente proprio sulle zone del mondo e sulle comunità più fragili. Tra poco vado ai vostri messaggi, ma intanto buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano anche al professor Enrico Giovannini, docente di statistica e sviluppo sostenibile Università di Roma Tor Vergata. Professor Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Fra l'altro lei è portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e tra gli organizzatori del Festival dello Sviluppo Sostenibile che è in corso proprio in questi giorni, e poi magari faremo una menzione per capire anche quanta sensibilità e quanto pubblico sta rispondendo rispetto a questi temi. Professore, stravolgo un po' la liturgia anche del programma, le sottopongo immediatamente una domanda che arriva da un ascoltatore al 349-238-6666 che scrive: come attivista di Friday for Future mi chiedo il perché le parole degli scienziati vengono sposate appieno per il Covid e non per il clima, a parte il fatto che potremmo sindacare anche su quanto vengano sposate a proposito della pandemia. Professor Giovannini, c'è anche un problema culturale sul capire l'importanza dello sviluppo sostenibile, o lei trova che dal punto di vista della ricezione del pubblico abbiamo fatto passi avanti? Certamente sono stati fatti passi avanti, e proprio la pandemia ha accelerato questo cambiamento, perché nella mente di molte persone è fatto, come dire, un click tra il legame tra le condizioni dell'ambiente, le condizioni economiche e i rischi sociali. Questo si vede un po' in tutti i paesi del mondo. Un sondaggio di Ipsos in 25 paesi condotto qualche mese fa, per esempio, diceva che il 71% degli intervistati si aspetta che i governi prendano provvedimenti per la ripresa economica nella direzione del Green New Deal, cioè della transizione ecologica. E se non venisse fatta una cosa del genere, dicono queste persone, il governo fallirebbe il suo mandato. Qual è il suo mandato? Quello di assicurare il benessere delle persone, non solo il reddito, di proteggere, di prevenire rischi futuri. Ecco, tutto questo, e il Covid in particolare, ha mostrato quanto siamo più fragili e vulnerabili di quello che ci piaceva pensare, e quindi come le politiche devono cambiare. E questo è l'appello del professor Enrico Giovannini, lo ricordo, insegna statistica e sviluppo sostenibile, già ministro, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e tra gli organizzatori proprio del Festival Sviluppo Sostenibile. Qualche info, qualche notizia in più lo trovate sul sito www.festivalsviluppo-sostenibile.it. Sembra farle eco immediatamente un ascoltatore, professor Giovannini, che scrive: ascoltiamo gli scienziati esclusivamente quando fanno comodo, e i nostri politici avrebbero dovuto affrontare già da tempo la questione climatica, ma nelle parole del professore evidentemente il Covid-19 è stato un acceleratore formidabile anche forse di prese di coscienza. Le faccio sentire, sempre dalla voce di Giulia Righi, che cosa chiede alla comunità internazionale la Federazione Internazionale di Croce Rossa. Lo anticipo, è sostanzialmente un cambio di passo, ma sentiamo dalla viva voce dell'esperta di clima. Great question. Bella domanda. Uno dei messaggi chiave è che la crisi climatica non si arresta per il Covid-19. Come dicevo prima, milioni di persone hanno sofferto per disastri come alluvioni, incendi, uragani, dagli Stati Uniti all'Asia. Le parti più povere del mondo sono state maggiormente esposte all'infezione, hanno avuto difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie e sono state doppiamente colpite quando toccate anche dai disastri naturali. Quindi è importante che la comunità internazionale dia indirizzi ed elabori politiche sulle due crisi simultaneamente. C'è stato un massiccio impegno finanziario globale per combattere il Covid-19 e questa è la prova che si può reagire in maniera drastica e immediata quando c'è un'imminente minaccia globale. Quindi ci vuole la stessa energia nella risposta ai rischi legati al cambiamento climatico. Gli investimenti per il Covid-19, poi, devono essere green, devono portare alla resilienza delle comunità, tener conto dei cambiamenti climatici in atto e dei prossimi disastri che possono colpire il mondo. Come già abbiamo mostrato nel rapporto dell'anno scorso, maggiori investimenti ecologici non solo diminuiscono il nostro impatto sull'ambiente, ma portano anche a vantaggi economici. Quindi la Federazione Internazionale di Croce Rossa e tutte le federazioni del mondo, così come le comunità, devono mettere in campo una risposta e un'azione di recupero che porti a una reale resilienza delle popolazioni. Ecco, forse l'hashtag resilienza ci accompagnerà per tutta questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la capacità di reagire di fronte agli shock, di fronte ai traumi, particolarmente plastica ed evidente nel caso delle fragili comunità dell'Africa subsahariana o per esempio del sud-est asiatico, ma poi ha toccato anche noi e alcuni fenomeni climatici stanno toccando il Mediterraneo forse come non mai. Ci ricordiamo quando Al Gore scriveva il libro a proposito del climate change, sono passati quasi 20 anni, il risultato è questo, scrive un ascoltatore, ma intanto fatemi tornare dal professor Enrico Giovannini, docente di statistica e sviluppo sostenibile, che in uno dei suoi ultimi libri, L'Utopia Sostenibile, sosteneva di sognare più o meno 20 volte al giorno di cambiare il mondo. Professore, come si scontra l'utopia sostenibile, la volontà di cambiare il mondo con alcune politiche, soprattutto penso a certi attori internazionali che sembrano particolarmente refrattari ad abbandonare i fossili, abbandonare il petrolio, abbandonare il carbone, con tutto il peso che queste scelte si portano? Guardi, in quel libro che lei ha citato, nell'ultima parte si parlava delle politiche europee. E indicavo una serie di sogni, speranze, aspettative. In gran parte nell'ultimo anno quelle aspettative si sono realizzate. L'Europa ha fatto finalmente una scelta chiara per l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, firmata 5 anni fa da tutti i paesi del mondo, per mettere al centro sostenibilità, resilienza, giustizia, queste sono le 3 parole usate a marzo, e poi hanno guidato la preparazione del Next Generation EU. Ma l'Europa è anche la più grande area economica del mondo e dunque può imporsi negli accordi commerciali, nella politica, se riesce a trovare la convinzione con cui ha affrontato, contrariamente al passato, questa crisi. Questo è un fatto molto importante che però va messo in pratica e quindi sappiamo che tutti i paesi ora stanno preparando i loro piani di ripresa e resilienza, sì. Non è un caso, sì. Invito tutti a guardare il rapporto di 2 settimane fa della Commissione europea, in cui tra l'altro si riprendono cose che appunto erano indicate in quel libro, perché dobbiamo prepararci alle crisi future, mentre il dibattito che sta avvenendo anche in Italia sul famoso Recovery Fund, che come detto non esiste in natura, ma resilienza e ripresa, è tutto concentrato su progetti che magari fanno aumentare il prodotto interno lordo, il PIL di qualche decimale, ma non ci preparano alla prossima crisi. E questo, professor Giannini, è un tema a noi particolarmente caro. Vorrei subito dopo la pausa per l'informazione finanziaria farle sfregare un po' la sfera di cristallo, perché è vero che esistono i cigni neri, è espressione super abusata di Nassim Taleb, quegli eventi totalmente inaspettati che sconvolgono, scuotono, soprattutto in campo finanziario, ma il Covid non lo è stato in campo finanziario. Però forse la sicurezza in senso lato e la preparazione degli stati dovrebbe essere rivolta proprio all'inaspettato, all'inaspettabile, i cosiddetti cigni neri. Stia con noi, facciamo una piccola pausa, l'informazione finanziaria. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quanto sono preparate le società, gli stati a rispondere a combinazione di eventi disastrosi come i disastri legati al cambiamento climatico, combinati per esempio con la pandemia del Covid-19. A giudicare dal rapporto di Croce Rossa, 51.6 milioni di persone toccate con esiti a volte disastrosi, molto poco preparati. Tra pochissimo chiederò a Lumi, al professor Enrico Giovannini, insegna statistica e sviluppo sostenibile a Tor Vergata a Roma, come si preparano le economie e le società alle crisi future, ai cosiddetti cigni neri o grigi o bianchi, a seconda di quanto siano prevedibili. Mettiamola così. Professore, però prima ascoltiamo una storia, la prima storia che punteggia la puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, in cui è davvero difficile prepararsi, perché quando un impatto derivante dal surriscaldamento globale, dall'innalzamento dei mari, va a coinvolgere un'intera città, anzi una capitale, beh, le gatte da pelare sono tante. Giacarta sta sprofondando. Considerata l'Amsterdam dei tropici, la capitale indonesiana, che ospita 10 milioni di abitanti, è minacciata dall'innalzamento del mare di Giava provocato dal surriscaldamento globale. Attraversando il quartiere di Muara Baru si vedono interi primi piani dei palazzi inondati e fabbriche abbondantemente mezze sommerse. La città sprofonda di 25 centimetri all'anno, il doppio della velocità media delle altre metropoli costiere. Tra le cause, oltre all'innalzamento degli oceani, ci sono le continue trivellazioni non regolamentate per l'estrazione di acqua potabile dalle falde acquifere. Nei kampung, piccoli quartieri improvvisati che costellano la grande metropoli, la popolazione vive già in palafitte, su fogne a cielo aperto. Mentre in altre zone della città, le mangrovie, possibili argini naturali, sono state estirpate per far posto a nuove soluzioni abitative. Il presidente Joko Widodo ha deciso di spostare la capitale del paese fuori dall'isola di Giava entro 10 anni, anche se in molti vogliono restare a Giacarta e nella sua area metropolitana, che complessivamente conta 35 milioni di abitanti. Il 2050 però, termine ultimo fissato dai ricercatori per la definitiva inondazione della megalopoli, si avvicina inesorabilmente. E proprio entro il 2050, a proposito di metropoli e di capitale, c'è chi ha troppa acqua e chi ne ha troppa poca. Sanaa, capitale dello Yemen, potrebbe essere la prima totalmente senza acqua sulla faccia della terra, mentre un'altra grossa città, per esempio Città del Capo, soffre cronicamente e costantemente di mancanza di acqua. Professore Enrico Giovannini, come ci si prepara, come si prepara l'economia e la società a una crisi, a un impatto come quello che abbiamo appena ascoltato? Come lei sa, noi siamo in un paese a rischio idrogeologico e spesso purtroppo dobbiamo fronteggiare i terremoti. Non siamo mai stati in grado di creare un dipartimento permanente per la gestione dei terremoti. Ogni volta ricominciamo da capo, mi dica se tutto questo ha un minimo di senso. 2 anni fa avevo proposto al governo Conte 1 la creazione di un istituto di studi sul futuro, come ce ne sono in tanti paesi, Francia, sì, Inghilterra, sì, Singapore e così via, il cui compito è quello di non prevedere il futuro, ma di immaginare rischi e opportunità future per prepararsi. Le faccio un esempio: quello di Singapore ha deciso di far costruire i box per le auto un po' più alti, perché loro pensano che con la guida autonoma le auto saranno molte di meno, e quindi se uno ha costruito box bassi, poi che ci fa con quegli spazi? Se li, certo, fa più alti, può farci dei negozi. Certo. Ecco, questo è un esempio di prepararsi a un futuro in modo intelligente, poiché appunto il futuro è molto incerto. Come si fa? Si fa preparando appunto la resilienza trasformativa, che è il concetto che adesso anche la Commissione europea ha adottato. Cioè non parlare più di politiche economiche, sociali, ambientali, ma di usare un'altra classificazione. Politiche che preparano, che promuovono, che proteggono, che prevengono e che trasformano. Queste 5 classificazioni, questi elementi della classificazione, possono pesare più o meno a seconda che uno shock, un disastro, sia di breve durata, certo, o di piccola entità, o invece sia di grande durata e di grande entità. Questo approccio diventa estremamente importante, e direi culturalmente importante, in un momento in cui la Commissione europea, cosa che altri paesi non fanno, non hanno fatto, riconosce che il futuro sarà pieno di shock. Ursula von der Leyen ha twittato dicendo: un giorno troveremo il vaccino per il Covid, ma non c'è vaccino contro il cambiamento climatico. Certo. C'è una vignetta molto bella, in cui, anche se drammatica, in cui c'è una città in riva al mare, arriva un'onda con indicazione Covid, dietro arriva un'altra onda ancora più grande, recessione, dietro un'onda gigantesca con cambiamento climatico. Purtroppo sapevamo da 50 anni, io decisi di fare l'economista nel 76 proprio leggendo libri di questo tipo, come quello del Club di Roma, sì, di Aurelio Piccei, che intorno al 2030 avremmo dovuto affrontare il combinato disposto, direbbe un giurista, cioè la combinazione di rischi enormi di carattere economico, sociale e ambientale, ma non li abbiamo creduto, abbiamo pensato che il mercato avrebbe fatto il mestiere che qualcuno sognava facesse, che l'innovazione avrebbe risolto tutti i problemi, e purtroppo sappiamo che non sta andando proprio così. Parole da accogliere, da abbracciare, da sottoscrivere, sottolineare. Adesso tra pochissimo, nell'ultima parte, capiremo quali attori internazionali abbracciano questa flessibile lungimiranza a cui faceva riferimento il professor Enrico Giovannini, docente di statistica e sviluppo sostenibile Tor Vergata, che ringrazio tantissimo. Professore, buona giornata e buon lavoro e buon festival soprattutto. Grazie, buon festival a tutti. Saranno 700 eventi in tutta Italia in 17 giorni, molti dei quali possono essere seguiti in diretta. Senza mettersi peraltro in macchina. Allora andiamo a vedere come sta andando per chi invece deve prendere l'auto, e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il mondo che verrà, la grande geopolitica che viene attaccata, plasmata dal cambiamenti climatici e anche dal Covid-19. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano anche a Luca Franza, responsabile del programma Energia, Clima e Risorse di IAI, Istituto Affari Internazionali. Franza, buongiorno. Buongiorno. Allora, le propongo intanto di ascoltare il commento di un ascoltatore che dice: ma perché non dice che tutto questo è basato su scenari completamente privi di attendibilità? E un altro ascoltatore su Facebook, che fa parte evidentemente dei adesso non so bene che etichetta usare, perché poi mi piglio i coltelli virtuali, un ascoltatore chiede di nominare un disastro da riscaldamento globale, secondo lui non ce n'è nemmeno uno. Beh, mi viene in mente cicloni Idai e Kenneth, Zimbabwe, Malawi, Mozambico lo scorso anno, 1000 vittime, mai rilevati cicloni in quell'area del mondo. Gli scienziati li attribuiscono a questi nuovi cicloni al cambiamento climatico. C'è chi non ci crede, c'è chi ci crede così tanto che è disposto a spendere cifre esorbitanti per proteggersi. Tutto questo avviene nella Silicon Valley. Sentite questa storia. Rifugio per sopravvivere all'apocalisse dotato di tutti i comfort. Ecco l'ultima tendenza tra i miliardari della Silicon Valley, diffusa già prima dello scoppio dell'epidemia, come racconta un lungo reportage di Ivan Osnos pubblicato sul New Yorker qualche tempo fa. Perché i guru della New Economy di San Francisco e dintorni, paladini della fiducia nell'alta tecnologia e nell'innovazione, stanno investendo in residenze pensate per resistere a scenari estremi, come sconvolgimenti climatici, disastri nucleari e ovviamente pandemie mortali. Secondo il reportage di Osnos, non si tratta di previsioni sicure ricavate con chissà quali metodi segreti, ma più semplicemente dell'abitudine della Silicon Valley di puntare su tutte le possibilità. Secondo Steve Huffman, fondatore e amministratore delegato del popolarissimo sito Reddit, almeno la metà dei miliardari delle nuove tecnologie si è già dotata di un'assicurazione sull'apocalisse. C'è chi compra isole, chi ha sempre un elicottero pronto al decollo e chi si fa costruire bunker in Nuova Zelanda, meta preferita in caso di cataclisma. In questo tipo di business c'è molta domanda e poca offerta. Per questo Larry Hall ha fondato la Survival Condo Project. Nel 2008 ha comprato un silo sotterraneo dismesso dal progetto missilistico Atlas e ne ha ricavato 12 appartamenti privati. I rifugi sono dotati dei migliori comfort, godono di un'autonomia di 5 anni di cibo e carburante e sono muniti di acquari per l'allevamento di pesce e serre per la coltivazione di verdure. Capienza massima 75 persone, costo 3 milioni di dollari. Tutti i rifugi sono già stati venduti. E quindi se casomai qualcuno di voi pensasse a questa soluzione estrema salvifica, si deve mettere il cuore in pace perché sono stati tutti venduti. Luca Franza, responsabile del programma Energia e Clima Risorse di IAI, Istituto Affari Internazionale. Al di là di queste storie, queste chicche che stiamo usando per condire la puntata di quest'oggi, è venuto il momento di capire come il grande scenario internazionale viene riplasmato dall'abbracciare o meno le idee green, dal togliersi dalla schiavitù del petrolio, insomma abbracciare tutto quello che il professor Giovannini ha spiegato prima. Sì, assolutamente. Io direi che il mantenimento dello status quo è da escludere. Da un lato l'inerzia di fronte alla lotta contro il cambiamento climatico porterebbe a conseguenze tragiche anche a livello di sicurezza internazionale. Dall'altro l'azione per il contrasto al cambiamento climatico avrà anche degli effetti geopolitici molto, molto importanti. L'inerzia non è un'opzione, direi. Innanzitutto il cambiamento climatico porterà a scarsità sempre più consistente di cibo. Si pensi al fatto che la domanda di derrate alimentari aumenterà del 50% nei prossimi 3 decenni. Ovviamente con siccità sempre più importanti sarà sempre più difficile far fronte a questa domanda in crescita. Ovviamente viene spesso sottolineata la scarsità di risorse idriche, sì, come conseguenza del cambiamento climatico, e ovviamente una delle conseguenze di queste due scarsità, cibo da un lato, risorse idriche dall'altra, sarà quella della migrazione climatica, quindi un aggravamento di instabilità con ripercussioni potenzialmente molto importanti, certo, anche su paesi come il nostro. E dall'altro anche agire per contrastare il cambiamento climatico, per quanto necessario, porterà a rivolgimenti geopolitici importanti, cambierà l'equilibrio di potere tra stati, perché sono diverse chiaramente le risorse che gli stati hanno a disposizione da investire per l'adattamento e la mitigazione, ma anche, certo, per avviare una transizione energetica di successo. E io penso soprattutto e guardo con un po' di preoccupazione agli attuali esportatori netti di idrocarburi, Arabia Saudita, altri paesi del Golfo, ma anche del Nord Africa, perché in un mondo profondamente decarbonizzato chiaramente questi paesi dovranno reinventarsi. E soprattutto perderanno il peso, quella formidabile leva politica che hanno in questo momento, già adesso che il prezzo del petrolio è ai minimi storici. Poi però, dottor Franza, ci sono delle storie che portano alla ribalta attori che magari non ti aspetti, in particolare nel Nord Africa, diciamo nel Mediterraneo allargato. Prima, lo possiamo dire, ci siamo sentiti prima della diretta, mi raccontava di questa storia dell'energia solare marocchina che potrebbe ridare rilevanza al Maghreb. Ci racconti, se può, brevemente di che cosa si tratta? Sì, assolutamente. Il potenziale per la produzione di energia elettrica rinnovabile in Nord Africa è enorme per ovvi motivi: tassi di radiazione solare ottimi, ma anche una bassa variabilità nella produzione di energia rinnovabile, perché alcune aree, ad esempio del Marocco, non sono solo soleggiate ma anche molto, molto ventose, costi bassi dei terreni, costi bassi per l'immagazzinamento, eccetera. Il problema è che è abbastanza difficile esportare elettroni, quindi chiaramente oltre a soddisfare la domanda nazionale, la domanda domestica di energia, l'obiettivo di questi paesi sarebbe anche quella di esportare appunto energia rinnovabile verso l'Europa. E per ovviare a questo problema, ossia al trasporto degli elettroni, che, sì, è appunto problematico, ci sono discussioni molto, molto interessanti in corso con anche aziende italiane presenti nel settore sulla possibilità di convertire l'energia elettrica prodotta appunto dalle rinnovabili in molecole pulite come l'idrogeno, che invece potrebbero essere esportate molto più agevolmente. A livello geopolitico questo è anche molto importante, perché permetterebbe di prolungare il rapporto di interdipendenza commerciale tra i paesi della sponda sud del Mediterraneo e quelli della sponda nord. E aggiungo anche, Luca Franza, probabilmente creare nuove opportunità di lavoro, e magari i cosiddetti migranti economici potrebbero avere minori interessi a spostarsi. Insomma, torniamo all'aspetto che sottolineava lei prima, di conseguenze geopolitiche anche molto molto forti. Siamo quasi in chiusura, le do 30 secondi, abbia pazienza, però le chiederei un commento sull'annuncio di Xi Jinping che dice entro il 2060 saremo a zero come emissione di anidride carbonica. Ci crede? Ma allora, sarebbe sicuramente molto positivo. Si stima che una neutralità carbonica cinese al 2060 basterebbe di 0,3 gradi sul riscaldamento globale. Sembra poco, in realtà è tanto. Sì. C'è da vedere cosa farà nel concreto la Cina nei prossimi mesi con il piano quinquennale, con la ridefinizione del contributo nazionale volontario. E chiaramente non è sempre facile credere agli annunci cinesi, perché da un lato si dice che si vogliono ridurre le emissioni e dall'altro si sta investendo in capacità di produzione di energia elettrica da carbone, che come sappiamo è il combustibile più inquinante. Poi d'altra parte, insomma, il regime di Xi Jinping in questo momento non se la passa benissimo dal punto di vista proprio dell'assetto politico internazionale. Luca Franza è responsabile del programma Energia, Clima e Risorse dell'Istituto Affari Internazionali. Franza, facciamo così, rimanga con me, ci facciamo gentilmente accompagnare alla porta da Valeria Bernardi. You're fired. Ringraziandola naturalmente di essere stato con noi, così come ringrazio tutta la squadra in nessun luogo, gli ascoltatori. L'appuntamento è domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.